Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma quanto non ci mette sta merda? Non dobbiamo uccidere la merda. Io sì. Ma no. Assolutamente sì. Questo è un goliardico brunette di Forza Italia, se siete riusciti a sentire questo audio, perché scherzava con Elisabetta Gardini, eurodeputata, sempre anche lei di Forza Italia, dicendo che bisogna uccidere la Merkel. Non so quanto scherzasse, evidentemente è sicuramente antiteutonico, diciamo, brunetta. Ma al di là di questo, naturalmente in mezzo ci sono sempre le questioni europee, la Grecia, di cui anche stasera inevitabilmente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, parleremo, perché intanto c'è il via libera da parte dell'Unione Europea di questo prestito ponte, che è già una prima forma di ossigeno. Poi anche la Banca Centrale Europea ha sbloccato delle liquidità per rimpolpare, diciamo così, le banche greche, che poi dovrebbero a loro volta anche poter dare i soldi anche al Bancomat, per dire banalmente, visto che in questi giorni sono rimaste chiuse e sapete delle ormai leggendarie file al Bancomat, soprattutto degli anziani. E poi c'è anche, ieri vi ricordate, abbiamo parlato con il professor Monacelli della Bocconi di Milano, del fatto che il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a dire: qui bisogna tagliarlo questo debito della Grecia, bisogna alleggerirlo, non ce la farà mai a pagare tutti questi soldi. Invece alleggeriamolo, oppure allunghiamo la possibilità in 30 anni di pagarlo man mano, abbassando i tassi eccetera, diamo insomma la possibilità di risollevarsi. Stesso anche la Banca Centrale Europea lo dice. Allora possiamo domandarci: non potevano prendere questa decisione, avere questa illuminazione prima, invece di far arrivare a questo livello la Grecia, pur coi suoi errori? Se volete potete rispondere a questa amletica domanda o sulla pagina, come sempre, di Effetto Notte, sulla pagina Facebook, oppure attraverso i messaggi da inviare al 349-238-6666, 349-238-6666. Questo è un possibile argomento per le vostre opinioni, anche se la notizia dominante oggi, cioè, in Italia, è questo giallo che coinvolgerebbe il presidente della regione Sicilia Crocetta, che sarebbe stato, secondo il settimanale Espresso, intercettato con frasi compromettenti da parte del suo medico personale, poi arrestato, che si augurava che fosse fatta fuori l'assessora Lucia Borsellino, così come fu fatto fuori suo padre dalla mafia. Però poi il procuratore di Palermo ha smentito che esistano queste intercettazioni, ma l'Espresso riconferma e ribadisce: no, ci sono queste intercettazioni ma sono secretate. Allora vediamo se entro la puntata riusciamo a raggiungere il governatore Crocetta, che in un primo tempo si è autosospeso, anzi ancora si è autosospeso, però bisogna vedere adesso: esistono o non esistono queste intercettazioni? Ne parleremo più tardi, ci concentreremo anche sul caldo, visto cose che viviamo proprio a livello epidermico un po' tutti, anche se sapete che io proprio potrei stare benissimo anche a 50 gradi all'ombra, ma la gran parte della gente soffre, quindi capiamo se ci sono giorni che ci aspettano anche peggiori, molto probabile. Pagina Facebook di Effetto Notte, messaggi al 349-238-6666, mentre voi riflettete e scrivete e ascoltate, vi racconto la giornata. Giallo in Sicilia, Crocetta si autosospende dopo le presunte intercettazioni pubblicate sull'Espresso, in cui il suo medico si augura l'eliminazione di Lucia Borsellino, ma per la procura di Palermo la telefonata non sarebbe agli atti. Grecia, l'Unione Europea dice sì al prestito ponte da 7 miliardi per salvare Atene e Draghi chiede di alleggerire il debito. Terrorismo, l'ISIS alza il tiro e attacca una nave egiziana al largo del Mediterraneo, e per l'Italia il ministro Alfano annuncia che da dicembre a oggi sono stati 40 gli estremisti islamici espulsi. Rifiuti in Campania, la Corte di Giustizia Europea multa l'Italia con 20 milioni di euro. Meteo, Caronte non dà tregua, in vista altri giorni di canicola africana. Sport, ai mondiali di scherma il fioretto azzurro fa un po' un flop, solo un bronzo per l'Errigo. Quindi da questo giallo che oggi ha visto alternarsi a ritmo indiavolato accuse, smentite, autosospensioni, richieste di dimissioni, poi lacrime, richieste di risarcimenti eccetera, l'Espresso, vi dicevo, ha pubblicato delle presunte intercettazioni di una telefonata tra Crocetta e il suo medico Tutino, arrestato tra l'altro giorni fa per truffa. Tutino avrebbe detto di Lucia Borsellino, assessora dimessasi in questi giorni alla salute della regione Sicilia, avrebbe detto: bisogna farla fuori come suo padre, cioè il giudice Borsellino ucciso dalla mafia. Crocetta non avrebbe reagito, secondo queste intercettazioni, a questa dichiarazione del suo medico, sarebbe rimasto in silenzio, e questa sarebbe la colpa, il motivo delle critiche e della richiesta di dimissioni nei confronti di Crocetta a partire dal suo partito, il PD. Lui poi si è autosospeso, ma poi la procura di Palermo oggi ha smentito di avere agli atti queste telefonate. L'Espresso ha ribadito tuttavia che esistono ma sono secretate. Il giallo sull'esistenza della telefonata non attenua per il momento la bufera politica sul presidente della regione Sicilia. Fastidio ed imbarazzo nel PD, che dopo la vicenda di Mafia Capitale vede aprire aprirsi un altro fronte di debolezza tra gli enti locali. La linea scelta allora dai vertici di Via del Nazareno è quella di prendere subito le distanze da Crocetta. Telefonata di solidarietà di Renzi alla Borsellino, duro commento quindi del vice segretario Guerini che dice: le parole ma anche i silenzi che emergono dalle intercettazioni sono gravi, inaccettabili e provocano ribrezzo. Di dimissioni inevitabili parla apertamente il sottosegretario Faraone, braccio destro del premier in Sicilia. Opposizioni scatenate contro il presidente di Palazzo d'Orléan. Crocetta, dimettiti, l'appello di Grillo, vai a casa, libereremo l'isola, commenta Salvini. Parole e toni simili da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Duri anche i commenti dei presidenti di Senato e Camera. Parole schifose le definisce Grasso, inaudite e deprecabili, aggiunge la Boldrini. Solidarietà alla Borsellino del presidente della Repubblica Mattarella e visita confermata sabato a Palermo del capo dello Stato per la commemorazione del giudice ucciso dalla mafia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo adesso il procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci, l'ha intervistato Raffaella Calandra. In questo fascicolo sono state fatte delle intercettazioni telefoniche. Tutino ha avuto delle conversazioni con Crocetta. In nessuna di queste conversazioni c'è una telefonata che ha un contenuto assimilabile a quello che avete, che è stato pubblicato. Se c'è un'altra procura, un altro ufficio giudiziario che l'ha intercettato, noi questo non lo possiamo sapere ovviamente. Io parlo della procura di Palermo, l'indagine che riguarda Tutino, questa telefonata non c'è. Potrebbe non essere stato intercettato da un'altra procura in un'altra inchiesta? Quello ovviamente non lo possiamo sapere. Oggi ho cercato di togliermi ogni scrupolo possibile perché non ho fatto un controllo non solo sulle telefonate acquisite agli atti e trascritte, vi sono anche una serie di telefonate che non rilevano ai fini dell'indagine. Abbiamo chiesto ai carabinieri di ascoltare tutte queste altre telefonate per avere la certezza che nemmeno in nessun'altra telefonata tra Crocetta e Tutino vi fosse questa conversazione. Quindi non c'è la possibilità che ci sia stata questa conversazione, ma che non possa essere stata trascritta agli atti perché penalmente non rilevante. No, anche questo è da escludersi. Nella nostra indagine non c'è niente del genere. Farete qualche indagine sul perché sia stata scritta questa cosa? Ma non è presto per dirlo, ma no. Noi però abbiamo un'indagine su Tutino, in cui Crocetta non è indagato, quindi abbiamo avuto il dovere istituzionale di dire come stanno le cose, ma lì per noi lì finisce. Insomma, un caso veramente complicato, intricato, sul quale cercheremo di fare almeno un minimo di chiarezza possibile più tardi. Vi dico, ora aggiungendo il governatore Crocetta o il suo legale, e poi ho cercato anche Lucia Borsellino, che però non ha dato la sua disponibilità, e anche il giornalista dell'Espresso che ha scritto questo articolo, uno dei due, Piero Messina, che però ha preferito non intervenire. Intanto spostiamoci sull'altro argomento centrale, che è la Grecia, con le decisioni dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Il voto del Parlamento greco è arrivato in tempo in modo soddisfacente, comunica la Commissione UE, e l'Eurogruppo dà il via libera di principio al terzo salvataggio ESM. La Grecia inoltre avrà un prestito ponte di 7 miliardi di euro, annuncia Jean-Claude Juncker, in modo che possa far fronte alle scadenze più urgenti. Il tutto dopo che il piano Tsipras è passato, nonostante i parlamentari frondisti di Syriza, compresi l'ex ministro delle finanze Varoufakis e il presidente del Parlamento Costantopoulou. Restano però gravi strascichi nella maggioranza, per questo il premier greco è al lavoro per un ripasso di governo da completare entro pochissimi giorni e il ministro dell'interno Vutis annuncia nuove elezioni tra settembre e ottobre. Intanto la BCE a sorpresa alza il tetto alla liquidità d'emergenza per le banche greche di 900 milioni di euro senza aspettare il via libera formale dell'Eurogruppo. Le cose sono cambiate, ci sono le condizioni per farlo, spiega Mario Draghi. L'unione monetaria è imperfetta e fragile, servono progressi, ammette poi il governatore della BCE, secondo il quale è fuori questione che un alleggerimento del debito per la Grecia sia necessario. Sulle modalità, aggiunge, ci concentreremo nelle prossime settimane. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di terrorismo, perché si inasprisce la guerra fra l'ISIS e l'Egitto, un gruppo che fa riferimento al sedicente Stato Islamico che opera nel Sinai e ha rivendicato l'attacco di oggi a una fregata della Marina Militare egiziana che ha poi preso fuoco. Il missile teleguidato ha colpito la nave che navigava nel Mediterraneo a 3 km dalla costa nord di Rafah alla frontiera con la Striscia di Gaza. Per quanto riguarda invece l'Italia, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha detto: dalla fine del mese di dicembre oggi sono arrivati a 40 gli estremisti islamici espulsi. espulsi dall'Italia con il rimpatrio di un 19enne marocchino che risiedeva regolarmente in provincia di Savona, sottolineando che il marocchino aveva pubblicato sul web una documentazione riconducibile allo Stato Islamico. Spostiamoci all'estero con questa notizia, una di quelle che ogni tanto vengono dagli Stati Uniti. È morto un uomo che ha aperto il fuoco oggi presso due strutture militari a Chattanooga in Tennessee, lo riferisce la CNN citando fonti ma senza fornire per il momento ulteriori dettagli. E siamo alla politica italiana. Raffaele Fitto, ex di Forza Italia, ex delfino di Berlusconi, ha lanciato oggi il suo nuovo partito. Il simbolo è un leone azzurro su base tricolore con la scritta Conservatori e Riformisti, l'aveva annunciato anche qua, vi ricordate, effetto notte. Proprio oggi si è rifatto vivo Silvio Berlusconi. Lancia bordate contro l'Europa, attacca il governo e la legge elettorale con il sistema dei 100 capilista, incita i suoi alla rivoluzione se mai dovesse finire in galera. È un Berlusconi tonico quello che parla alla prima conferenza nazionale degli amministratori locali di Forza Italia e lo fa nella stessa sala della Camera dove poche ore dopo Raffaele Fitto terrà a battesimo il suo nuovo movimento Conservatori e Riformisti con tanto di nuovo logo, un leone in campo blu. Quanto a Forza Italia, Berlusconi rassicura, non sarà rottamata. Un partito che si chiamerà sempre e comunque, è un bellissimo nome, Forza Italia. Il vecchio partito però, spiega ancora Berlusconi, entrerà a far parte di un contenitore nuovo, una grande casa della speranza aperta a tutti, un progetto pazzo, dice, al quale sto lavorando da qualche settimana. Insomma, conclude l'ex cavaliere, io sono sempre qui. Sono ancora qui ad affrontare le ire della sinistra e ad affrontare, speriamo di no, ma le eventuali azioni di qualche PM, che non essendo io protetto da nulla, non sono parlamentare, potrebbero anche portarmi a non essere più libero. Se questo dovesse accadere, Cristo, io spero che voi abbiate il coraggio di fare una rivoluzione. Per i Kalashnikov, rivolgetevi a Bossi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E si torna a parlare dell'emergenza dei rifiuti in Campania, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha multato l'Italia per le inadempienze relative alla raccolta dei rifiuti nella regione. 20 milioni di euro più una penalità da 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo a partire da oggi nell'attuazione della sentenza. È la maxi multa decisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a carico dell'Italia a causa dell'inesatta applicazione della direttiva sui rifiuti in Campania. Una vicenda per cui la Corte Europea aveva già condannato l'Italia nel marzo del 2010. La mancata messa in atto di quanto contenuto in quella sentenza ha fatto scattare la procedura di infrazione europea, che ha dato poi origine alla multa. Poche volte avviene, nonostante le migliaia di infrazioni avviate e soltanto a seguito di prolungate inadempienze. L'Italia, del resto, ha già il primato negativo della multa più pesante mai inflitta dalla Corte, quella dello scorso dicembre sulle discariche illegali. 40 milioni di euro più penalità da 42 milioni massimo per ogni semestre fino alla messa in regola. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Momenti di tensione oggi sono stati a Quinto di Treviso davanti a Residence, dove da ieri sono stati portati 101 profughi. Dopo essersi seduti in strada per protestare contro il loro arrivo, i residenti della zona hanno impedito che gli addetti alle cooperative che hanno in carico i migranti consegnassero loro una cesta di cibo. Sul fronte degli arrivi, altre centinaia di migrati sono attesi per questa sera, perché la nave militare Dattilo trasportava 835 migrati e arriverà appunto in serata a Vibo Valentia in Calabria. Un'altra nave di Medici Senza Frontiere con a bordo circa 700 immigrati attesa al porto di Trapani, dovrebbe aver già attraccato. E nuovi arresti, adesso parliamo dei nuovi arresti contro 'ndrangheta attiva in Emilia e Lombardia. 9 persone sono state arrestate all'alba di oggi, sequestrati beni e società per oltre 330 milioni. Per il meteo, vi dicevo all'inizio, con il caldo che non dà tregua, pare che il peggio debba ancora venire, poi lo chiederemo al nostro meteorologo più tardi qui effetto notte. E per lo sport invece, ai mondiali di scherma di Mosca, il fioretto azzurro ha fatto un po' un flop, perché è arrivato solo dopo l'oro di ieri, è arrivato un bronzo oggi per Arianna Errigo. E per il ciclismo, lo spagnolo Rodriguez ha vinto per distacco la 12ª tappa del 102esimo Tour de France. Bene, per il momento ci fermiamo qui, questa è la sintesi della giornata. Adesso voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte o sulla Grecia, per dire è possibile che il Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, insomma la famosa Troica insieme all'Unione Europea, non ci potessero pensare prima ad alleggerire il debito di Atene, pur sapendo appunto che non poteva pagare in tempi brevi senza tracollare tutti quei debiti, tutti quei soldi. Vedo diversi vostri messaggi. Marina Di Massa, la vera Unione Europea. Michele da Marina Di Massa, siamo preso per uno, Michele da Marina Di Massa in Toscana. La vera Unione Europea, dice, l'unione dei debiti e crediti, gli Stati Uniti d'Europa, altrimenti sarà solo una guerra. E poi Giuseppe scrive: gli eurocrati sono dei conformisti incompetenti, il cuore non va mai oltre l'ostacolo se non quando tirati per i capelli o quando il loro posto non è a rischio. Ci ritroviamo dopo con i messaggi e poi vediamo appunto di parlare di questo giallo che riguarda la regione Sicilia, in particolare il governatore Crocetta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo guardando ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, per esempio sulla vicenda questione della Grecia. Alessandro dice: se fossi responsabile finanziario di un gruppo di società e avessi prodotto questi risultati, quelli dell'Unione Europea sulla Grecia, sarei stato licenziato, veramente una figuraccia per i governanti di tutta Europa e le conseguenze le pagano i cittadini. Adesso però vi ricordo le notizie principali della giornata e poi parliamo del giallo della Sicilia. Frase shock sul Borsellino, Crocetta nella bufera rispetto a questa intercettazione pubblicata dall'Espresso sul suo colloquio, una telefonata con quello che era il suo medico personale Tutino, che è stato arrestato nei giorni scorsi per truffa. Tra poco ne parleremo. E poi c'è la Grecia con il sì al prestito ponte da 7 miliardi, ormai l'Unione Europea ha detto di sì per salvare la Grecia. Draghi dice: bisogna alleggerire il debito e la Banca Centrale Europea aumenta la liquidità per le banche greche. Berlusconi che rilancia Forza Italia, dice sì le riforme ma con una modifica dell'Italicum. Intanto è caccia al killer a Roma, killer del gioielliere. Ieri sapete che durante una rapina nella zona Prati è stato ucciso un gioielliere. Caronte non dà tregua per quanto riguarda il meteo, altri giorni di canicola sono attesi. Poi questa maxi multa europea all'Italia per i rifiuti della Campania, vi ricordate l'emergenza rifiuti. E poi una notizia che è arrivata adesso che riguarda il Brasile. La procura di Brasile ha aperto un'inchiesta contro l'ex presidente Lula da Silva per un caso di presunto traffico di influenze illecito a seguito della violazione delle leggi, della legge anticorruzione, questioni insomma di denaro, questioni fiscali, non ha nulla a che fare con l'influenza, quella che porta la febbre. E poi invece questa sparatoria di cui abbiamo brevemente parlato nel Tennessee, negli Stati Uniti, sono stati uccisi 3 Marines e si parla di un atto di terrorismo interno agli Stati Uniti. Ora invece concentriamoci, vi dicevo, sull'argomento centrale di oggi per quanto riguarda le notizie italiane, cioè questo giallo che si è svolto in Sicilia e che fa male o farebbe male a diverse persone. Adesso vediamo se chi è davvero coinvolto e che titolo, di cui ancora bisogna capire i contorni. Secondo una rivelazione dell'Espresso, il settimanale Espresso, contenuta nel numero in edicola domani, e oggi c'era un'anticipazione online, sarebbe stata intercettata una telefonata nella quale Matteo Tutino, primario dell'ospedale palermitano Villa Sofia, nonché medico personale del presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, avrebbe detto: Lucia Borsellino, cioè l'assessora alla salute della regione, va fermata, fatta fuori come suo padre, cioè come Paolo Borsellino, vi ricordate, il giudice assassinato il 19 luglio 1992. All'altro capo del telefono ci sarebbe stato, sempre secondo l'Espresso, il governatore della Sicilia Crocetta, che ascolta, tace, non si indigna, non replica in nessun modo, non ha nessuna reazione a questo commento macabro, e Crocetta viene quindi attaccato da più parti quando viene pubblicata questa cosa. Lucia Borsellino rilascia una brevissima dichiarazione in cui dice, in sintesi: mi vergogno per loro. Sentiamo cosa dice. Mi sento intimamente offesa, certamente, e poi provo anche un senso di vergogna per loro. Credo che ogni altra parola in questo momento sia assolutamente superflua. Il quadro che emerge è un quadro veramente triste, nel quale si comprende qual è il clima nel quale sono stata costretta ad operare. Dal PD in particolare arriva la solidarietà a Borsellino e l'invito a Crocetta a dimettersi, il quale a questo punto si è autosospeso da Presidente della Regione Sicilia. Nel pomeriggio però una specie di colpo di scena, il procuratore di Palermo Francesco Lovoi dichiara: agli atti dell'ufficio non risulta trascritta alcuna telefonata del tenore di quella pubblicata dalla stampa tra il governatore governatore Crocetta e il dottor Matteo Tutino. I carabinieri del NAS, aggiunge Lovoi, hanno escluso che conversazioni simili siano contenute tra quelle registrate nel corso delle operazioni di intercettazione nei confronti di Tutino. E sentiamo anche cosa ha detto il procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci. Ne avete sentito una parte prima, sentiamolo ancora intervistato da Raffaella Calandra. In questo fascicolo sono state fatte delle intercettazioni telefoniche. Tutino ha avuto delle conversazioni con Crocetta. In nessuna di queste conversazioni c'è una telefonata che ha un contenuto assimilabile a quello che è stato pubblicato. Se c'è un'altra procura, un altro ufficio giudiziario che l'ha intercettato, noi questo non lo possiamo sapere, ovviamente. Io parlo della procura di Palermo, l'indagine che riguarda Tutino, questa telefonata non c'è. Potrebbe non essere stato intercettato da un'altra procura in un'altra inchiesta? Quello ovviamente non lo possiamo sapere. Oggi ho cercato di togliermi ogni scrupolo possibile, perché non ho fatto un controllo non solo sulle telefonate acquisite agli atti e trascritte, vi sono anche una serie di telefonate che non rilevano ai fini dell'indagine. Certo. Abbiamo chiesto ai carabinieri di ascoltare tutte queste altre telefonate. E quindi abbiamo detto, questa è la procura di Palermo che risponde in questo modo. A quel punto Crocetta, al telefono con l'ANSA che lo ha chiamato, dice: è vero che la procura smentisce, oggi mi hanno ammazzato. Sentiamolo con la voce tremante. Io non sono culpato, che era legato al condannato e stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione, se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. Lasciatemi nella mia sofferenza e nel mio dolore, cui mi sento. Mi lasci stare, per favore. Questo è il tormento di Crocetta. Più tardi però l'Espresso, in serata, in tardo pomeriggio, ha confermato, ribadisce quanto pubblicato, dice: la conversazione intercettata tra il Presidente della Regione Sicilia Crocetta e il primario Tutino risale al 2013 e fa parte dei fascicoli secretati di uno dei tre filoni di indagine in corso sull'ospedale Villa Sofia di Palermo. E Crocetta parla di metodo Boffo, dice anzi è peggio ancora il metodo Crocetta. Vi ricordate Boffo, direttore dell'Avvenire, che fu calunniato, poi si dovette dimettere, eccetera eccetera. Ringrazio della sua disponibilità e saluto Vincenzo Lore, che è legale di Rosario Crocetta. Buonasera. Lore, buonasera. Quindi ho ricostruito un po' la storia, perché naturalmente è un po' complessa e le ascoltatrici e gli ascoltatori non tutti avranno seguito ogni minimo dettaglio. Che cosa succede adesso? Come sta intanto il governatore Crocetta e che cosa pensate di tutta questa faccenda? Questo non glielo so dire, perché io l'ho sentito alle 5 e qualche minuto, quando ho saputo dai giornalisti che mi hanno contattato in diretta che la procura aveva diramato il comunicato stampa con il quale aveva smentito. Voi parlate ancora di giallo, ma per me di giallo c'è ben poco, perché non conoscevo le dichiarazioni di Agueci che completano e confermano il comunicato stampa firmato dal procuratore Lovoi, e per me non c'è più alcun tipo di giallo. Insomma, la situazione è chiara, c'è stata una mistificazione evidente posta in essere da chi non sappiamo. Crocetta ha parlato di congiura mafiosa, io molto più semplicemente penso a quelli che si chiamano servitori dello Stato, ma che a volte diventano depistatori professionisti. Ma per me il giallo non c'è più. Tra l'altro non posso che ricordare al direttore dell'Espresso di questo sentito le dichiarazioni in TV, che mi pare ridicola un'autodifesa che parli di secretazione di atti. La secretazione la fa il pubblico ministero. Se il pubblico ministero, che dovrebbe secretare l'intercettazione, dichiara che non c'è alcuna telefonata né conversazione ambientale di questo tenore, non capisco. Capisco dal punto di vista umano e personale l'autodifesa, ma quando vi citeremo per danni la tireranno fuori questa intercettazione. Non c'è storia, non c'è competizione tra la serietà del comunicato stampa della procura di Palermo e l'autodifesa del direttore dell'Espresso, che si arrampica sugli specchi. Visto che l'ha citato, avvocato Lore, allora sentiamolo brevemente intervistato a Sky. L'Espresso ribadisce e conferma quanto abbiamo pubblicato, d'altra parte si può leggere la nostra nota anche sul sito del giornale, del nostro settimanale. La conversazione intercettata tra Crocetta e il primario Tutino fa parte dei fascicoli segretati. Si tratta di altre inchieste. Tutino viene arrestato il 29 giugno scorso. Ci sono almeno altre due inchieste in corso, segretate ovviamente perché sono inchieste in corso, e all'interno di queste inchieste i nostri cronisti hanno ascoltato quella intercettazione. Crocetta legittimamente si difende. Noi abbiamo riportato una conversazione che è imbarazzante. Adesso vedo per esempio Calderoli, che dice che paese del cazzo è questo, della Lega, dice: l'Espresso ribadisce che l'intercettazione esiste e che è secretata. Chi mente? Il governatore, il suo medico, la procura che smentisce oppure l'Espresso? Ma comunque è intricata la vicenda, naturalmente lei, avvocato Lore... perché... Ma no, che Calderoli dica che mente il procuratore di Palermo, ovviamente è una dichiarazione molto divertente di cui ciascuno ha responsabilità. No, cioè, no, chiede chi mente, non dice chi mente e fa tutto questo elenco. Solo lui si può porre questo interrogativo, si vede che la sua intelligenza politica non arriva a fargli comprendere chi può mentire tra i due, io non ho dubbi. E tra l'altro c'è un particolare che voglio osservare. Il direttore dell'Espresso parla di altre due inchieste su Villa Sofia. Villa Sofia è un ospedale palermitano. Avete posto la domanda al procuratore Agueci, al procuratore aggiunto Agueci, se per caso ci può essere un'altra procura che abbia intercettato o indagato. Bene, le indagini su Villa Sofia sono di assoluta competenza della procura di Palermo, su questo non c'è dubbio. Che ce ne sia più di una, vabbè, questo lo sa l'Espresso e io me ne prendo atto. Ma che le competenze siano della procura di Palermo è altrettanto indiscutibile. Che si continui a dire nel mondo politico, per ragioni strumentali, che ci sono dei dubbi tra il comunicato stampa della procura di Palermo e la dichiarazione del direttore dell'Espresso, mi pare una polemica che francamente non è degna di nota. Avvocato, quindi adesso, avvocato Lore, che cosa intendete fare? Il governatore Crocetta, intanto questa autosospensione, per quanto rimarrà, lei ha detto che l'ha sentito fino alle 5, poi basta. Ma non so, io al posto suo continuerei a lavorare per la Sicilia come ha fatto dal giorno in cui è stato eletto, bene o male, questo è un giudizio che spetterà agli elettori rendere nel momento in cui sarà necessario ritornare alle urne, ma che lui si debba dimettere per una dichiarazione, per una conversazione che non esiste francamente, o autosospendere, io spero che torni a lavorare per il governo regionale. Poi le sue scelte, l'amarezza che ha provato, è chiaro che oggi hanno sofferto due persone, Lucia Borsellino da una parte, la famiglia Borsellino ovviamente, ma altrettanta amarezza, e mi pare che nessuno possa pensare che Crocetta recitasse quando è scoppiato a piangere, per chi lo conosce. Vede, io sono sicuro che a fronte di una frase di questo genere, che mi permetta, io non ho mai parlato con Matteo Tutino, forse l'ho incontrato una volta in un locale pubblico palermitano entrando e uscendo, e io ero in compagnia di persone che lo conoscevano e lo hanno salutato. Io penso che questo non sia un linguaggio neppure di Tutino, di un primario di chirurgia messo lì in quel posto e con un tipo di cultura e di livello culturale che secondo me non gli dovrebbe consentire di parlare come un killer di mafia. Anche se lei sa che è stato arrestato per truffa e altri reati comunque. Adesso, è ben diverso che fare che parlare come se fosse uno stragista. Per carità, dico, c'è l'indagine in corso, anche questa ricordo al direttore dell'Espresso è segretata, perché non si possono svelare neppure gli atti di un'indagine in corso, che è quella di cui, appunto, a cui ha fatto riferimento il direttore dell'Espresso. Cioè l'obbligo di segretezza riguarda sia questa fase dell'arresto di Tutino, sia questo processo dell'arresto di Tutino, sia le altre indagini di cui lui parla e di cui lui ha conoscenza. Io certamente no, perché non ho i suoi mezzi né le sue capacità di violare il segreto investigativo. Però voglio dire, per me non è capace neppure Tutino, ma sono sicuro, guardi, che se Crocetta avesse percepito una frase del genere, come minimo gli avrebbe detto che cosa dici, per non dire che lo avrebbe insultato con assoluta certezza. E allora per me deve riprendere a governare, poi se lui si è amareggiato così tanto da decidere di farla finita con questa esperienza politica, la sua scelta personale, ma non dovuta a problemi di natura giudiziaria, che sono quelli che mi competono. Avvocato Lore, visto appunto che Crocetta si ritiene estraneo a questa vicenda così triste che ha colpito profondamente anche Lucia Borsellino, no? Come dicevamo, ma si sono sentiti, ha provato a chiamare a chiarirsi con Lucia Borsellino, ex assessora alla salute? No, lo so, non lo so, ma glielo so dire. E invece rispetto ai giornalisti dell'Espresso, Piero Messina e Maurizio Zoppi, che hanno scritto questo articolo, che cosa intendete fare? Lì parleremo con gli atti giudiziari, non la mia dichiarazione alla radio, per quanto rispettabile la vostra intervista di cui vi ringrazio, no, lascio il tempo che trova. È chiaro che è una frase gravissima, è una diffamazione gravissima, da parte mia penso che agiremo sia in sede civile che in sede penale. La ringrazio, avvocato Vincenzo Lore. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Poi naturalmente vedremo se sarà possibile entro la fine della trasmissione anche sentire direttamente il governatore Crocetta. Intanto però voi continuate con i vostri messaggi, per esempio Mauro Gandolfi al 349-238-6666 si scandalizza della multa che abbiamo ricevuto dalla Corte Europea sull'emergenza rifiuti in Campania, dice: ma ci rendiamo conto, 20 milioni di multa e 120 mila euro per ogni giorno di ritardo, oltre i 40 milioni al semestre già combinata, cos'altro dobbiamo da invidiare la situazione greca, ci facciamo prestare soldi per salvare l'Italia? E certamente però su certe cose bisogna essere più all'altezza di un paese civile. Mentre voi continuate a scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia i vostri sms al 349-238-6666 sugli argomenti principali, come può essere appunto la Grecia, di cui parleremo tra pochissimo per capire anche com'è che Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea siano arrivati un po' agli sgoccioli ormai a dire bisogna alleggerire il debito della Grecia, cosa che forse si poteva fare prima. Parleremo di Grecia, poi del caldo che probabilmente ci aspetta anche peggio nei prossimi giorni. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi. Abbiamo appena parlato poco fa, prima di lasciarci, con il legale del governatore della Sicilia, Vincenzo Lorè, per tutta questa faccenda veramente intricata, convulsa, complessa. È stata una giornata molto agitata e l'avvocato diceva appunto che a questo punto agiranno per vie legali nei confronti di quello che ha rivelato l'Espresso e che ritengono appunto una menzogna, una cosa inventata, anche se l'Espresso ribadisce che queste intercettazioni ci sono ma sono segretate. Intanto vedo anche i vostri messaggi su questo argomento, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia per gli sms al 349-238-6666. Paolo che scrive: se non c'è la conversazione i giornalisti devono essere cacciati dall'ordine, lo facciano ascoltare. Poi Massimo dice: sarebbe forse il caso di ascoltarla questa registrazione, così potremo sapere se esiste e chi ha mentito. Poi Miki: ma ci sono anche le sfumature nei contenuti, quante volte abbiamo detto al telefono io lo la ammazzerei quando si comporta così, siamo tutti mafiosi, allora forse le intercettazioni non possono essere il cardine su cui imbastire un processo in tribunale o nei media, poco importa. E poi anche sulla pagina Facebook Effetto Notte c'è per esempio Ilaria che dice: fermo restando che la frase in questione è inqualificabile, è pur vero che non se ne può più di politica fatta a colpi di intercettazioni, anche se appunto l'avvocato diceva assolutamente non esistono, così anche il procuratore di Palermo, e dall'altra parte l'ho detto l'Espresso ribadisce che ci sono. Veramente un caso intricato. Tra poco però parleremo di un altro caso complesso, che è quello della Grecia, anche se qualche sbocco sembra aprirsi. Intanto vi ricordo quali sono però le notizie principali della giornata. Col giallo in Sicilia, Crocetta si autosospende dopo le presunte intercettazioni pubblicate sull'Espresso in cui il suo medico si augura l'eliminazione di Lucia Borsellino, ma per la procura di Palermo le telefonate non sarebbero agli atti. Grecia, l'Unione Europea dice sì al prestito ponte, ne parleremo tra pochissimo. Terrorismo, l'ISIS alza il tiro e attacca una nave egiziana al largo del Mediterraneo. Rifiuti in Campania, la Corte di Giustizia Europea multa l'Italia con 20 milioni di euro. Meteo, Caronte non dà tregua in vista altri giorni anche peggiori di caldo. Sport e mondiali di scherma, per il Fioretto solo un bronzo per la Errigo. Europa 24. E colleghiamoci ad Atene con Vittorio Darold, che è lì da diversi giorni che sta seguendo questo dramma greco, che però sembra un po' più adesso avere un percorso lineare, seppur con difficoltà. Ciao Vittorio, anch'io a volte ho difficoltà. Mi senti Vittorio? Sì, ciao. Sì, tutto bene. Sì, effettivamente come dicevi tu, c'è una svolta nella vicenda greca, perché come dicevi il prestito ponte arriverà, anche se questo prestito come al solito servirà per pagare i debiti, ecco, gli interessi, servirà per pagare la ricapitalizzazione delle banche, ma non andrà nelle tasche dei greci, quindi sarà sempre il solito partita di giro. E poi c'è l'aumento diciamo dei prestiti di emergenza per le banche greche, che come tu sai sono chiuse, appunto grazie a questo aumento di prestiti dovrebbero riaprire lunedì, no, mi pare, Sì, le banche riapriranno e quindi tu avrai almeno diciamo la possibilità di poter accedere allo sportello fisico, ma sempre con i limiti di 60 euro. Ah, rimane il limite di 60 euro al momento? Sì, lo potrai prendere 60 euro oppure ogni tre giorni 180, ma insomma c'è sempre il limite e non potrai portare naturalmente capitali all'estero oppure pagare. Vittorio, però allora da una parte sul fronte interno, dopo che la Grecia, dopo che il Parlamento greco ha dato il voto favorevole nella notte al piano di riforme per ottenere gli aiuti, sul fronte interno si è spaccato il partito di Tsipras, Syriza, e quindi forse si va verso un rimpasto per quanto riguarda il governo, e leggevo anche probabili elezioni in autunno, quindi ancora poca instabilità per la Grecia, no, da un punto di vista politico e non solo. Poi sul fronte europeo lo dicevi tu che i 28 paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo di principio su questo prestito ponte di 7 miliardi. La banca centrale ha alzato la liquidità di emergenza, come dicevi, per le banche, però come ieri il Fondo Monetario Internazionale chiedeva di alleggerire il debito, oggi vedevo che anche Mario Draghi dice alleggeriamo, le cose sono cambiate, alleggeriamo il debito della Grecia. Non ci potevano pensare queste istituzioni un po' prima proprio di arrivare allo strangolamento della Grecia? Sì, esattamente, Mario Draghi oggi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa perché non ha mai nominato la parola Schäuble, ma era lui che si rivolgeva quando diceva che bisogna tagliare il debito e come dice il Fondo Monetario, d'altra parte i greci lo hanno detto in tutti i modi, avere un debito al 2% del PIL rende impossibile qualsiasi tipo di appunto pagamento. L'altra questione che dicevi è interna, sì, Syriza si è spaccata, c'è un'ala diciamo di sinistra che non vuole votare le misure di austerity che erano quelle che poi erano in campagna elettorale e quelle con cui il Premier ha vinto un referendum, ma tant'è, Tsipras è stato realista, ha cambiato completamente posizione perché non aveva scelta. E la cosa importante però è che la sinistra di Syriza qui è un po' bizantina, è un po' complicato da spiegare, non avrà diciamo una posizione negativa in caso di voto di fiducia del governo, ma non voterà le misure, che però l'opposizione è disposta a votare le misure di austerità e quindi la situazione per ora resta in equilibrio, un po' in equilibrio, perché naturalmente come dicevi si può avere qualche sorpresa e quindi l'instabilità resta elevata. Resta elevata. Grazie intanto Vittorio De Rold da Atene. Ciao Vittorio. Ciao. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Restiamo sulla Grecia con il professor Rigas Raftopoulos, che è docente di storia della Grecia contemporanea all'Università Roma 3. Buonasera, professore. Buonasera. Professore, le faccio una domanda da un milione di dollari. Allora, la Grecia, che paese è stato rispetto ad ora? Che paese è e che paese soprattutto sarà dopo quanto è successo? Perché Syriza è un partito che è appena nato, no? Praticamente nel 2009, appena vinto nel 2015, pensava di rimanere all'opposizione, invece si è trovato a governare, ma subito si è frantumato. Guardi, cos'è stata la Grecia? La Grecia è stata, credo, per 40 anni, cioè diciamo dalla fine del regime dei colonnelli, è stato un paese che piano piano ha cominciato ad entrare all'interno delle organizzazioni europee, aderita alla comunità europea, e parallelamente dal punto di vista interno si è diciamo segnalata per l'alternanza di due partiti al governo fino appunto sostanzialmente fino al gennaio di quest'anno, cioè Nuova Democrazia e il PASOK. Sono, sì, per diciamo non farla troppo lunga, partiti che hanno creato un sistema interno di occupazione dello Stato, un clientelismo abbastanza marcato, peraltro sono elementi non assolutamente estranei anche a, diciamo, agli italiani dal certo punto di vista della... Come mentalità, come carattere, come spirito, quindi anche la Grecia ha le sue colpe, no? La differenza, sì, credo, una delle differenze fondamentali è nella struttura produttiva del paese, diciamo non sono confrontabili questi due stati. Cos'è la Grecia dal gennaio 2015, cos'è Syriza? Syriza in realtà è il Syriza di Tsipras, direi, per la precisione, è un partito che fondamentalmente ha assunto una fisionomia abbastanza evidente, che è quella peraltro che credo mantenga anche ancora oggi, grazie all'attuale primo ministro. È un partito che si è formato, ha assunto alcune caratteristiche abbastanza precise, tra cui io sicuramente credo si possa dire l'europeismo. Tsipras viene da una tradizione, diciamo, se vogliamo anche eurocomunista, però poi è riuscito, credo, a miscelare, ad amalgamare vari elementi della sinistra riformista in qualche modo. Io credo che non bisogna dimenticare che in Grecia esiste un partito comunista, il KKY, che mantiene, diciamo, posizioni, io credo si possano definire assolutamente anacronistiche, e in questo credo che il confronto con Siriza sia molto evidente. Da qui in poi direi che cosa è la Grecia oggi dal punto di vista politico, credo non ci siano particolari alternative più che al Siriza, o oltre che al Siriza direi a Tsipras come leader. Tsipras stesso, perché sì. Sì, perché credo che il referendum del 5 luglio, il referendum sì o no, del 61% di no, abbia in qualche modo, io parlo, cerco un pochino di parlare da storico, anche se è difficile fare la storia del presente, credo che abbia messo in qualche modo la parola fine sul vecchio, diciamo, bipartitismo PASOK Nuova Democrazia. Il futuro è difficile, è chiaro, il Siriza ha delle difficoltà, ci sono gli esponenti della piattaforma di sinistra che mantengono questa posizione, diciamo, in qualche modo ambigua, cioè no alle misure di austerità, però sì al sostegno al governo. E domani, da quello che si legge dalle agenzie greche, da quello che ho potuto vedere, è previsto un rimpasto di governo. Infatti. Sicuramente dei tre ministri o tre esponenti del Siriza, della piattaforma di sinistra, che hanno posizioni ministeriali, che verranno sostituiti in qualche modo. Comunque a Tsipras è davvero difficile in questo momento vedere delle alternative in Grecia. Comunque aspettiamo i prossimi tempi, intanto vediamo se riesce a prendere un po' di quota, un po' di ossigeno la Grecia con questa liquidità e eventualmente con questo taglio del debito in cui si può sperare. Io intanto la ringrazio, professor Lafotopoulos. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie, buona serata. Fiabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, ho parlato di tanti argomenti, naturalmente iniziare dal tema principale oggi per quanto riguarda le vicende italiane, questo giallo sulla Sicilia che coinvolge Crocetta. Abbiamo avuto poi qua in collegamento il legale di Crocetta, abbiamo avuto vari audio, anche quelle del procuratore di Palermo, insomma una questione intricata, e abbiamo sentito anche le dichiarazioni soprattutto dell'avvocato di Crocetta. E poi il prestito ponte da 7 miliardi per la Grecia, c'è stato il sì dell'Europa, ne abbiamo appena parlato. Della Grecia e poi anche del caldo, direi che è sicuramente un argomento centrale. Con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo? Buonasera Roberta, eccomi. Sono tutti molto preoccupati, tra me e pochi altri, di questo caldo. È vero che potrebbe aumentare nei prossimi giorni? Sì, purtroppo sì, guarda, è stata insopportabile l'idea che a te non infastidisca, però insomma accetto di buon grado. E guarda, sì, in realtà andiamo verso una nuova intensa ondata di calore sull'Italia, si aspettano 7 giorni fino a giovedì prossimo compreso, con temperature elevate, umidità elevata, quindi temperature percepite al nostro organismo veramente alte. Insomma, temo che questa estate 2015 non credo che arrivi proprio a dei record veri e propri, perché abbiamo il 2003 che fino ad ora è imbattibile, però insomma registreremo dei valori veramente ben al di sopra della norma. Insomma, ormai le ultime estati mediterranee, togli la scorsa che è stata anomala, sono sempre più caratterizzate da questo anticiclone nordafricano che porta aria bollente, umidità elevata e che poi insomma lo paghiamo sulla nostra pelle. Il perché stia capitando questo non è facile, però non è facile individuarlo, ma io in realtà secondo me in qualche modo lo si può contestualizzare in un ambito più generale di cambiamento climatico, per cui il Mediterraneo e l'Italia, così come molte parti del mondo, stanno subendo negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, dei cambiamenti della circolazione atmosferica. Le cause di questi cambiamenti difficilmente secondo me sono solo naturali, perché la Terra non ha mai sperimentato dei cambiamenti così veloci nel suo passato. Ci deve essere una causa aggiuntiva che temo sia l'uomo con le sue malefatte, e ci sono studi a riguardo che lo dimostrano. L'aumento dell'effetto serra è causato dall'aumento dei gas serra che noi stiamo immettendo in atmosfera. E se non ci diamo una svegliata, guarda, temo che andremo verso periodi sempre più difficili, senza creare allarmismi, ma sono degli scenari per il futuro non molto rosei se non interveniamo in fretta. Uomo avvisato, eccetera, eccetera. Paolo, noi ci risentiamo domani comunque, per le previsioni. Roberta, certo, ciao Paolo Corazzon, ciao, buona serata a te. Ora invece abbiamo il nostro Paolo Ricci, Dario Ricci, mettiamo insieme il caldo. Dario Ricci è entrato. Bottiglietta d'acqua ce l'abbiamo. Siamo felpatamente si è posto davanti a me, perché dobbiamo parlare soprattutto di scherma, ma ci sono anche, c'è anche una notiziola di calciomercato. Beh, una notiziola che movimenta un'ottantina di milioni di euro, c'è questo passaggio di Vidal al Bayern Monaco, dalla Juventus, esattamente, che è ormai cosa fatta. Dico 80 milioni di euro perché 37 più per 3 lui. No, aspetta, sì, magari sarebbero pure pochi. 37 milioni più 3 di bonus andranno alla Juventus. Vidal pure però mette da parte un bel gruzzoletto, perché per 5 anni ne prenderà 7 l'anno, quindi 7 per 5 35, perfetto, promossa in matematica, trovato, mamma mia, ho tremato io. E poi diciamo che poi la Juventus bisogna mettere pure da parte dei soldi, no? Beh, insomma, per garantirsi il futuro. Sì. E Juventus che ora è sulle tracce di questo Mario Götze, che è il giocatore che di fatto ha deciso gli ultimi mondiali, perché segnando ai supplementari il gol per la Germania contro l'Argentina è stato l'uomo di Brasile 2014, al Bayern Monaco. È un talento, un fantasista, ha 23 anni, ma il Bayern Monaco finora ha trovato poco spazio e allora potrebbe se arrivare. Se lo pigliano qua in Italia. Vediamo, ci si prova. Senti, invece per i mondiali di scherma, mentre ieri c'è stato un'ora, una bella impresa, sì, sì, no, di Rossella Fiammingo, sì, sì, che poi abbiamo intervistato, abbiamo sentito anche qui oro al nostro spada, microfono, oro nella spada. Oggi c'è stato il grande flop, perché sia uomini che donne nel fioretto che di solito è l'arma che ci garantisce sia a livello maschile ma ancora di più a livello femminile le maggiori soddisfazioni, hanno deluso. È arrivato solo un bronzetto, per carità, di grande valore, perché l'ha conquistata Arianna Enrico, che era la campionessa in carica nelle ultime due edizioni e stavolta si è fermata alla semifinale mancando il triplete. Ma diciamo, in questo quadro deludente fa sensazione soprattutto lo stop agli ottavi di finale di Valentina Vezzali, perché questa abituati a vederla sempre vincente, però sarà vincente in un altro campo, mi pare di aver capito. Potrebbe, da indiscrezioni, sì, perché i rumors sempre più insistenti, ed anche la Vezzali nel dopogara si può dire che non li abbia smentiti in toto, la danno addirittura chiamata dal Consiglio dei Ministri in programma lunedì a ricoprire il ruolo di ministra dello sport avete italiano. Capito, l'ha detto anche giusto Dario, ministra dello sport, ormai mai, giustamente, mai, ti ho contagiato, mai ti ho convinto. Mai, ecco, brava, mai convinto. Ecco, sei stata non a colpi di pollice, ma a forza di mazzate, però persuasiva, mai dopo ti stringo la mano, Dario. No, quindi Dario, sarebbe davvero una bella, bel colpo, sì, colpo. Una colpo di fioretto della Vezzali, poltrona vacante dai tempi di Josefa Idem, e insomma sarebbe un bel personaggio. Bel successo, grazie Dario Ricci, e noi ci risentiamo alle 22.